La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori della 24, martedì 11 di novembre, 11:11, solidarietà per chi a Genova e Liguria è di nuovo sotto pioggia, fortunali, inondazioni. Insomma, la natura continua a ribellarsi, secondo me non all'uomo e alla sua attività, ma alla cattiva politica e alla pessima pubblica amministrazione. Sapete che in questa settimana Radio 24 aveva, a prescindere da quello che sta avvenendo di nuovo in questi giorni, ma deciso di dedicare a rotazione una puntata, una trasmissione al giorno ai temi di Genova un mese dopo la inondazione. E il nostro turno come versione di Oscar, modestissima, sarà domani, ma continueremo a occuparci di quello che succede, anche perché ricordate che a Genova nel frattempo lo Stato, come già era avvenuto in Emilia e così via, ha dato 10 giorni solo di rinvio per non pagare le imposte, però naturalmente si pagano le sanzioni. Non voglio commentare perché... Allora, comunque, la puntata di oggi è dedicata a voi artigiani in ascolto, se siete artigiani o anche commercianti. Perché? Perché non so se l'avete capito, ma insomma l'aria che tira è questa. Nei provvedimenti della legge di stabilità, come sapete, retroattivamente si è abbassato l'incentivo di cui, se avete dipendenti, avete goduto sull'IRAP, perché è risalita l'aliquota. Non c'è verso, nella versione attuale della legge di stabilità, di prevedere che, per esempio, nel passaggio alla local tax, cioè l'imposta nuova che dovrebbe mettere insieme tutte quelle sugli immobili, ci sia il riconoscimento che sugli immobili che sono strumentali di impresa, se siete proprietari della vostra bottega, vadano in deduzione, come per esempio i contributi dei dipendenti. Manco per idea, e con ogni probabilità la somma della local tax, sommate IMU, ICI, TASI, TARI e tutto il resto, sarà superiore ai 31,5 miliardi di cui, da cui si comincia. Avete letto che è in arrivo la revisione degli estimi catastali, nella legge delega c'è scritto che sono a gettito invariato. Beato chi ci crede. Guardate il titolo di Repubblica di oggi, che fa la media delle stime delle rivalutazioni in arrivo sugli immobili, con punte fino a più 180%. Ecco, quindi non è che vi dovete fidare di me che dico che non ci credo all'invarianza di gettito, ma comunque, se siete artigiani, commercianti e proprietari dell'immobile, tenete conto che lo Stato continua e continuerà a volervi far pagare sui vostri immobili strumentali di impresa come se fosse la seconda casa, e secondo me è una cosa ignobile e completamente incomprensibile. Poi dice: la domanda interna non riparte. Te credo. Allora, a fronte di tutto questo, ieri sono state presentate 10 proposte per liberare l'Italia, sono state presentate dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato, e appena le ho viste, secondo me il nostro strumento di radio di servizio è quello di aprire il microfono e consentire a chi le ha elaborate, Confindustria o non Confindustria, che è il nostro datore di lavoro qua dentro, di fare parlare chi rappresenta quei pezzi fondamentali di 4 milioni e oltre piccole imprese italiane, più di 8 milioni di dipendenti, ai quali naturalmente quei 4 milioni di imprenditori individuali, col cavolo che vanno gli bonus 80 euro l'anno scorso, quest'anno, l'anno prossimo, niente, se non appunto aggravi. Ecco, per parlare delle 10 proposte, e mi scuso da subito perché il tempo sarà poco, quindi dovrà andare di corsa per illustrarvele, c'è appunto il presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Daniele Vaccarino. Buon pomeriggio, presidente, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori. Agli ascoltatori. Allora, iniziamo subito. Queste 10 proposte da cosa nascono? Intanto nascono da una ricerca fatta attraverso un sondaggio su 2400 imprese, e questo sondaggio, insomma, non fa altro che confermare ciò che ovviamente sapevamo, ma sapevamo così da naso. E allora, il 76% delle imprese dice che la burocrazia è il freno per lo sviluppo dell'attività. Quindi, ed è un concetto che purtroppo è drammatico, ma è verissimo. E allora abbiamo cercato di quantificare sia i costi, scoprendo che in un anno se ne vanno circa 5 miliardi dalle imprese per la burocrazia, e abbiamo cercato di questo, proprio perché siamo una associazione che guarda con attenzione sempre di più alla proposta, anche la protesta quando è necessario, ma soprattutto se sarà in grado di fare produrre delle proposte che siano all'altezza anche dei tempi che stiamo attraversando, di come è possibile semplificare in quest'Italia così impossibilitate. Faccio solo un esempio per dire che ad oggi ad ogni legge che viene tolta, insomma, ce n'è 1,3 che entra, quindi siamo di fronte ad un moltiplicatore continuo. Altro che il bilancio delle semplificazioni è un bilancio delle complicazioni. Il bilancio delle semplificazioni è stato sempre questo. E quindi abbiamo messo insieme una decina di proposte, alcune più di carattere generale, ma poche, perché volevamo essere molto concreti. Ovviamente su quelle di carattere generale c'è la riforma del titolo quinto, perché non è possibile continuare a avere sovrapposizione, incongruenze. Ricordo solo che ci sono dal 2002 ad oggi 1700 pronunce della Consulta in relazione al conflitto di attribuzione tra Stati e Regioni, quindi immaginiamo solo questo cosa viene. Un'altra più di carattere più generale, dicevo, una revisione dello stock legislativo. Noi sosteniamo che bisogna introdurre dei codici di settori per poter avere una legislatura che dei sia… Dei testi unici. Esatto, dei testi unici, perché altrimenti c'è una sommatoria di cose dove non si riesce più neanche ad uscirne. E poi invece abbiamo inanellato una serie di proposte operative, alcune che sembrano addirittura banali. Semplificare l'ispezione di controlli. Noi abbiamo in Italia una situazione paradossale per cui se un'azienda può essere contemporaneamente sugli stessi argomenti ispezionata da i più disparati enti, i Vigili del Fuoco, l'INPS, l'INAIL, l'ARPA, le ASL, la Polizia, i Carabinieri, il Nucleo Antisofisticazione, addirittura il Corpo Forestale, insomma c'è un surplus di enti che tra di loro hanno anche indicazioni e metodologia di ispettive diverse. Mi faccia dire, Presidente, qui faccio complimenti a chi ha elaborato la vostra cosa. Voi richiamate a questo proposito, a proposito cioè di una norma che detti delle condizioni per accorpare i controlli plurimi, richiamate un precedente che in Italia è poco noto, quello della Hampton Review nel Regno Unito, che appunto ha consentito negli anni, in quel caso erano soprattutto controlli fiscali e contributivi, fiscali, sì. Esatto, e ha consentito una diminuzione corposissima del numero degli accertamenti e ha ottenuto anche un'estensione della base imponibile. Cioè non è affatto vero che la moltiplicazione dei controlli, che naturalmente costa risorse umane, risorse tecnologiche e così via, porti poi costa le aziende. Esattamente. E quindi può diventare un aumento della base imponibile, in effetti è vero. Ecco. Così come indichiamo la necessità assoluta di un'agenzia per la qualità della legislazione, noi l'abbiamo chiamata agenzia, chiamiamolo un organo responsabile, ce n'è in tutto il mondo, ce l'hanno nel Regno Unito, si chiama Better Regulation Executive, in Francia mi pare di ricordare si chiama Conseil de la Simplification, ovvero sia un'agenzia, un organo di controllo che legiferi l'impatto delle leggi che vengono scaricate sui cittadini e sulle imprese. Impatto regolatorio. Teniamo presente per chi ci ascolta che qui le uniche verifiche ex ante ed ex post della legislazione italiana sono fatte dalla ragioneria ed ex post della Corte dei Conti sul principio dei saldi pubblici. Non viene valutato né ex ante né ex post l'impatto regolatorio dei costi di adempimento, né per esempio sulle norme fiscali, altro che le previsioni di maggiore entrata o minore entrata, rispetto invece all'impatto che hanno sull'economia reale, sulla domanda e sull'offerta del paese. È per questo che poi si sballa tutto, cioè avere delle certificazioni istituzionali distinte dal MEF e dalla ragioneria sull'impatto della regolazione e sull'impatto anche dei provvedimenti fiscali ex ante risposte darebbe un faro, un termine di riferimento anche di ordine, secondo me, al dibattito pubblico, renderebbe tutto poi più trasparente, per così dire. Poi ancora c'è stata un'indicazione europea chiamata Small Business Act, e significava che per legiferare bisogna anche pensare in piccolo. In Italia è stato tradotto nello Statuto delle Imprese. Noi abbiamo salutato con estremo interesse la nascita dello Statuto delle Imprese, perché concettualmente avrebbe significato che la legislazione che parla di imprese deve verificare anche l'impatto sulle piccole imprese, che sono la stragrande maggioranza. Le faccio una domanda un po' ruvida, ma non è stato quel provvedimento di legge una maniera per la politica di lavarsi un po' le mani, visto quello che poi ne discende, cioè abbastanza poco in concreto per le piccole imprese? Ma visto i risultati infatti assolutamente sì, è stata un'indicazione europea recepita e anche qui ormai dal punto di vista legislativo si traduce in guardare le leggi appunto ex post e cercare all'interno della legge se c'è qualcosa a favore delle piccole imprese, non legiferare considerandole, che è fondamentale, che sarebbe in un paese che ha 4.150.000 piccole imprese. Allora, ferma un secondo, torniamo tra 60 secondi perché c'è l'informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.48 dagli studi oggi da Roma di Radio 24, Oscar Giannino. Stiamo parlando di queste 10 proposte per liberare l'Italia che ha avanzato ieri la CNA, la Federazione Nazionale dell'Artigianato, e con noi il presidente Vaccarino. Prima do una risposta a un ascoltatore, Enrico da Brescia, che mi ha mandato un sms dicendo: cosa diciamo del comma sparito inerente al tetto dell'80% per le pensioni d'oro? Ne parla oggi il Corriere della Sera per fare capire chi è in ascolto e non ha letto. È sparita una norma, no? Dalla riforma delle pensioni, che era intesa a porre uno dei pochi tetti alle pensioni d'oro, quelle solo retributive, che già portano a casa agganciati agli ultimi stipendi il totale delle pensioni, invece che con un montante che si calcola sui contributi pagati, come quelli che avevano meno 18 anni di anzianità ai tempi della riforma Dini. Ed è sparita da quella riforma un comma che prevedeva che, visto che già c'è un regalo per le pensioni retributive, non ci fosse anche la somma possibile di un regalo aggiuntivo per il periodo misto retributivo e contributivo, perché ad alcuni con gli stipendi molto elevati era possibile col sistema contributivo nella seconda parte professionale. È sparito quel comma. Enrico, cosa vuoi che ti dica? Io non mi sorprendo, deve essere stata la mania di un alto burocrate di Stato che era esattamente in quelle condizioni, e il caos in cui avviene il processo legislativo politico è tale che la politica non è in grado di capire che cosa vota, e gli alti burocrati non solo scrivono le norme ex ante, ma poi se le correggono pure ex post, perché quello ci doveva essere nella riforma. È uno dei tanti schifi italiani. Poi, come piemontese, lasciatemi dire che sono allibito e mi vergogno, non sto accusando nessuno politicamente, ma che una regione, la regione Piemonte, che ha avuto la mancata parificazione della Corte dei Conti perché non ha iscritto in bilancio 2.3 miliardi, sì, avete sentito bene, miliardi di euro, perché gli servivano per pagare i debiti pregressi, debiti che non aveva pagato ai fornitori, gli ripresta il tesoro, lei utilizza quei 2,3 miliardi per pagare altro e non i fornitori, e non li iscrive a debito, perché così è andata. Che una regione in queste condizioni di giudizio, di mancata parificazione della Corte dei Conti, faccia anche la stangata fiscale che ha deliberato ieri per tutte le tasse tranne l'IREP per altri 100 milioni, a me come piemontese lascia allibito. Torniamo con Daniele Vaccarino, presidente di CNA, l'avevo interrotta sulla serie di proposte. Allora, sì, potrei proseguire con due cose che già esistono e che dovrebbero solo entrare in funzione. Gli sportelli unici, tutti li conoscono. Gli sportelli unici in Italia non funzionano perché intanto non si parla tra di loro, e questa è drammatica la situazione. Ci sono procedure e sistemi informatici che non comunicano tra l'uno con l'altro. Voi avete fatto un'ottima recensione, ci sono 82 grandi sistemi informatici pubblici, sì, e decine di migliaia di piccoli. 27.000 per la precisione, 27.000 sistemi informatici intermedi, d'altra parte con 8.000 campanili in Italia ognuno si inventa il proprio programma. Che non parla con gli altri. Che non parla con gli altri. E questo ci introduce nell'altra altra proposta, che anche questa un po' più di carattere generale, ma sulla quale non ci si può più star fermi, che è l'agenda digitale, perché queste dimensioni assurde di tanti sistemi informatici che non comunicano tra di loro impediscono di fatto quello che dovrebbe essere il futuro, ovvero sia le comunicazioni telematiche. Oggi siamo di fronte ad alcune aberrazioni spaventose per cui si manda sia il supporto informatico e poi dopo magari un mese o due mesi il comune, l'amministrazione ti richiede un supporto cartaceo perché non è riuscito. Senta, poi c'è anche una proposta sulla giustizia, però io vorrei che lei spendesse qualche parola in più per questa idea nuova del credito d'imposta. Qual è la vostra proposta sul credito d'imposta? È molto semplice. Noi non diciamo che lo Stato debba supportare le aziende per nulla. Allora, ci sono molti adempimenti che vengono caricati sulle aziende e sui cittadini, adempimenti che sono di natura, che dovrebbero essere non a carico dei cittadini. Faccio un esempio, la TASI arriva, il modello non è compilato, per cui bisogna compilarselo. La stragrande maggioranza degli artigiani non è nelle condizioni, per il tempo, per la mancanza di conoscenza. E quindi si paga il professionista. Ecco, quindi fa un lavoro che dovrebbe fare lo Stato, che dovrebbe fare non chi ha il compito solo di pagare. Ecco, noi chiediamo, con una proposta quindi che è anche un po' provocatoria, ma è una provocazione bonaria, nel senso di dire: o lo Stato è nelle condizioni di darci le informazioni e le cose giuste, altrimenti se dobbiamo supplire, ci dovete pagare. Quei costi devono diventare deducibili e diventano credito d'imposta. Sono molto favorevole a questa idea. Noi non possiamo fare i dipendenti dello Stato non pagati, noi che paghiamo lo Stato. Questa è l'idea, questa è un'idea di civiltà. È un'idea di civiltà. Sentiamo Gianni da Imperia, che ci telefona per sentire come la pensa su queste 10 proposte. Gianni, prego. Buongiorno a tutti. Intanto sono complimenti al Presidente, sono d'accordissimo con parecchie cose che ha detto. Lancio io anche una proposta. Io sono un imprenditore, avevo 45 dipendenti, sono rimasto con 5 e adesso chiuderò anche con quelli perché non ne posso più. Per la burocrazia, per i controlli, come diceva il dottore, perché io tutti i giorni ho uno che viene a controllare. Negativo, negativo, negativo, però è uno stilicidio. I NAS, i LAS, le LUS, il CRIST, non ne possiamo più. Primo, adesso lancio una provocazione che molti condividono dai miei colleghi. Vogliamo riassumere personale? Io sono pronto a fare questa proposta provocatoria, voglio sapere la vostra opinione, se mi la date, mi fate un caso di idea. Io ho il terrore, come tanti altri, il terrore, non dormo di notte, perché un dipendente per 5 anni mi può fare l'avvertenza. Allora, io non posso vivere con questa spada di Damocle. Io consegno la busta, 30 giorni al dipendente, per tutti i diritti deve averli, tutti, ma anche i doveri, 30 giorni per controllarla, quando poi le consegno la successiva busta, se non c'è niente da obiettare, si procede e non voglio più avere la paura. Il rischio per i 5 anni di impugnativa e contenziosa. Ricattato. Va bene, Gianni, è chiarissimo quello che ha detto. Sentiamo cosa dice il Presidente Cennà, Daniele Vaccarino, della sua idea. Prendiamola come 11ª proposta per la semplificazione, perché anche ottimo. Quello è un sistema per rendere la vita più facile alle nostre imprese. Lei, dottore Daniele, all'inizio ha detto il paese delle piccole imprese, perché noi siamo questi, 8 milioni di dipendenti, circa il 50%, è l'unico paese che non fa delle leggi a misura delle imprese che ci sono in Italia. Le facciamo a misura di imprese che in Italia non ci sono non più. Ci sono, questo esattamente. Noi vogliamo esattamente, per dar forza a quella che è, come dire, una forza economica che c'è nel paese, che ha le possibilità di svilupparsi, ed è quella alla quale dobbiamo guardare per far rilanciare la domanda interna e questo mercato domestico, al di là di chi tira per l'export, ma per fortuna che oggi è piegato. Grazie Daniele Vaccarino, la CNA, continuate su Radio 24, appuntamento come a domani.